siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farvi scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. No, chi è? Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Punturina di oggi, prima punturina. Eccala. È la prima punturina, Io lo so, sarò fissato, sarò malato di mente, sarò monomaniacale in questo periodo. Però ti vado a trovare ogni tanto. Froci. No, no, no, lascia perdere. Perché già immaginavo dove. No, signor Pannella, ancora una volta. Poverino, ma perché? Ti devo fare sentire questa. Ti prego, ti devo fare sentire. Una storia limpida, trasparente. Senti. Basta fare una puntura e tutto passerà. Sette associazioni italianofone, prevalentemente, che costituiscono il partito. Nessuno tocchi Caino, non c'è pace senza giustizia. Forza, avanti. Sì. Avanti. No, ma stavo Pasolini. Dicendo l'era, quindi Giorgiana, l'associazione per l'esperanto. Poi abbiamo. Che abbiamo poi? Vietcong libera, Tibet libera. Che conoscete ed è uno dei simboli importanti. Poi? E che ho dimenticato. Che c'è? Ah, radicali italiani, per carità, dicono che lo voglio sciogliere. Per carità. Ma una cosa pazzesca. Nessuno tocchi Caino, ma Caino si tocchi e non c'è. Non pace. Capisci un cazzo. No, dai, io capisco, caro Marco. Però oggi, sono devo radicale. Dire la verità, la novità è proprio questa che viene dai radicali. Cioè dire, il presidente della Repubblica Napolitano dice che bisogna fare l'amnistia e l'indulto. L'amnistia e l'indulto. Se non ci fossero, io vi dico subito radicali, una cosa. Vi dico subito una cosa. Io sono ferocemente contrario. Ecco, ma non un po' ferocemente contrario, ferocemente. Ecco. A parte le critiche che lo si fa per Berlusconi. Questa è la critica che viene dai grillini, che dicono si fa per Berlusconi. Ma la cosa fondamentale è che non risolve un cazzo questa questione. Quando fu fatta, l'ultima volta, dopo sei mesi stavamo di nuovo di punta a capo, dai su, non serve a nulla, non serve a niente. Basta fare una puntura e tutto passerà. Grandi ospiti fra poco, Grandi già ospiti in studio, fra poco. Seduti e collegati, sale. E collegati. Vuoi ridere con questa cosa? Sallusti, il giornale non è del PDL. Vuoi ridere? Sallusti. Sì, il giornale. Ma Sallusti è troppo simpatico. Non è del PDL. E di chi è? Sì, certo, non è del PD, no. Non è organicamente del PDL, no, però certo. Abbastanza vicino si può dire questo, no? Beh, il proprietario chi è il proprietario del giornale? Signor Paolo Berlusconi. Come si chiama il cognome? È parente. Paolo Berlusconi, credo. Poi, non lo so. Evidentemente c'è qualcuno nel PDL che ritiene che il giornale sia il giornale del PDL. No, il giornale è ha un editore che si chiama Paolo Berlusconi, famiglia Berlusconi. Sarebbe stupido dire che il fratello Silvio non ha influenza sulla scelta del direttore del giornale, immagino che... Se ci fanno fuori tutti e due, cioè lui e la Santanchè, andiamo a correre. Senti. Sta benissimo. Non so esattamente cosa vuol dire chiedere la testa di un parlamentare, perché la testa del parlamentare ce l'hanno in mano gli elettori, non il segretario. Se dovessero farvi fuori tutti e due, moglie e marito, che si fa? Beh, la vita è lunga, si fa, si va a correre, per esempio. Il dottore ha detto già. Oh, volete ridere anche questa cosa qua? Franceschini, ieri credo dove era Ballarò. No, ieri che era. Boh, non lo so, ci sono tanti talk. Franceschini dice: mi fa effetto essere al governo col PDL. Ma come ti fa effetto? Adesso dice. Ti fa effetto sei al governo da sei mesi col PDL. Ma se siete vicini, c'è la signora Di Girolamo, c'è Lorenzin, Franceschini, Alfano, vice premier, ministro degli interni. Ti fa effetto? No, no. Le fa effetto? Le fa effetto quotidiano. Perché quelli con cui mi sono contrapposto in Parlamento o politicamente sono quelli con cui adesso mi trovo a governare, ma non bisogna rimuovere perché siamo qua. Vabbè, tralasciamo queste cose, voglio molto bene a Roberto Giachetti, però penso davvero che questo sciopero della fame ennesimo contro il Porcellum sia una puttanata inaudita, sia una cagata pazzesca, per dirla alla Fantozzi. Il problema è che non si sciopera, non si fa il digiuno per una legge elettorale, dai, di che parliamo? Dai, su, senza cuore, su, dai, senza non si fa il digiuno per una legge elettorale, non si fa il digiuno per una legge elettorale. E concludiamo questa prima parte con D'Agostino, numero uno assoluto, Roberto D'Agostino, che facciamo? 10 anni al potere, ma che cazzo avete fatto? Ieri rivolto a tutti in realtà, destra, sinistra, sentiamo. Tutti cadono davvero, la riforma della giustizia. Vado in pubblicità. 10 anni al potere, ma che cazzo avete fatto? È il numero uno, dai, Minetti, no, Minetti la voglio sentire, sua Minetti però, dai. Perché poi noi conosciamo bene certe carriere della politica, sì, no? Sì. Una Minetti che nasce come igienista orale, sì, e che poi diventa dentale. Dentale, sì, mentale, che ne so, sì, anale. La risata che avete appena sentito è quella di Emilio Fede, in studio, eccolo, con noi. Gli applausi, voglio gli applausi. Direttore, buonasera, come sta? Mamma mia, non l'ho mai vista da vicino. Dove posso assentarmi? Ho un'urgenza. Che devi fare? È un'urgenza. A pisciare. Non c'è un un'urgenza. Deve, vai, vai, vai. Devi andare a pisciare. Vado e torno. Vai, vai a pisciare. Ma trovo ancora la Minetti. Ma com'è? Non c'è il catetere? Non c'è. No, sì, ce l'ho, ma adesso mi sei guastato. Ma adesso viene no, gli hanno chiuso il rubinetto. Ma veramente devi andare a pisciare? No, non devo andare, come lo chiamate voi. Bip, bip, bip, c'ho da fare. Bip, bip. No, Patrizia Mirigliani in collegamento, buonasera. E dov'è? Ah, buonasera. Come sta, signora Mirigliani? Conosce bene, molto bene. Conosce il direttore qui, Fede? Conosce? Beh. Sì, certo, certo. Beh, è stato giurato a Miss Italia quante volte, sì, signor Fede? Qualche anno fa l'abbiamo avuto con noi, sì, a Miss, sì, Italia. Allora, devi sapere, direttore, tu forse non lo sai, ma sì, perché sei informatissimo, che la 7 ha acquistato i diritti di Miss Italia. Nonostante, cioè, signor Mentana, si è comprata Miss Italia. Tiepidamente contrario. Beh, sì, tiepidamente. Ad agosto aveva fatto una piccola critica che non è adatto alla 7. Lei l'ha sentito, signor Mentana, Mirigliani, oppure se ne sbatte? Scusi, no, se la dico così, ma in maniera... Cioè, rispondo io? Sì, sì, beh, certo. Sì, sì, no, no, io. Rispondere anch'io, allora, mi sto mettendo poco fa. Vada. Allora, no, guardi, io rispondo che, beh, chiaramente ognuno ha la sua opinione. Mentana è stato con noi in un'edizione bellissima, l'anno di Danny Mendes. Si è, appunto, è stato giurato, no? È stato giurato anche lui. Ha giurato, sì. L'ha giurato, si è sposato una Miss Italia, per è cui vero? Cosa vuole? Certo, io non vedo l'ora di incontrare Mentana per parlare con lui e per così chiarire questo aspetto, perché ci dispiace molto, insomma, ma siamo certi che insomma... Lei lo dice con una piccola critica, però. Lei lo dice con una piccola critica, cioè non può fare una critica a Miss Italia, cioè al fatto che ci siano delle donne, eccetera, sì, non nude ovviamente, ma insomma con costumi, eccetera, eccetera, perché lui ha partecipato come giurato e si è sposato un ex Miss Italia. Però adesso no, fa un altro per caso, no, per caso. Aspetti, non è così, non è così. È arrivata io seconda. Ho fatto un cappello iniziale in questo senso. Ma voglio dire che i giudizi di Mentana, persona che io stimo molto, sono preziosi anche per noi, perché entriamo in una casa nuova e questa casa nuova vogliamo conoscerla meglio e capire anche... Hai visto, a me mi ha liquidato subito, invece a Mentana, mamma mia! Che dici, direttore? No, di me ha detto niente, invece di Mentana. Va bene, Patrizia! Per lo tratti male, sta dicendo. Perché? Che lo tratti male, no, no, lo no, tratti no, male. No, no. Vabbè. Come tratto male? Come lo tratto male? Però scusami, Patrizia, dottoressa Merigliani, scusi, stavo dando sì, del dammi tu, ma... del tu, per carità. Sì, sì, allora, forse... io dico, la RAI diceva che costava troppo, come il Festival di Sanremo, e rendeva poco. È vero o non è vero? Ma non è vero. Sicuramente. Allora perché non l'hanno voluta? Perché non l'hanno voluta Miss Italia? Ma non l'hanno voluta perché probabilmente in questo ultimo anno, perché per 25 anni siamo stati... d'amore d'accordo, l'hanno prodotta, hanno prodotto 4 puntate, eccetera, eccetera, probabilmente è cambiata forse qualche testa all'interno che ha voluto segnare. Cioè, chi è un che non l'ha voluta veramente? Il presidente, la Tarantola, quando disse in un'intervista, ma, guardi, mi ricordo? Quello che riporta la stampa, il nome è appunto... appunto è la direzione di rete e la presidente. Cioè, se è stato forse... il presidente, io voglio capire da lei, è stato il presidente della RAI, la signora Tarantola, a non volerci, sì. Questo è vero o no? La presidente della RAI ha dichiarato ad aprile di voler cambiare l'immagine della rete. E che della RAI è femminile della rete. E quindi praticamente noi siamo stati così congedati. Così. Ma scusi, cambierà la gara in qualche modo oppure no? Oppure resterà sempre la stessa adesso? Ma la gara cambierà, ma la gara già da tempo noi volevamo. No, ma adesso ci sarà per la 7 cambiarla. Qualche novità? In che allora, modo? Ci saranno sicuramente delle novità, visto che noi entriamo in una rete che tra l'altro ci piace molto, una rete impegnata. Vabbè, questo è credo, vi auspico. Siamo a nostro agio. E sicuramente cambieranno delle cose, non le vogliamo svelare subito. Ma una, ma ce ne dica una, quello una, che una novità. Una novità. Non ci sarà il concorso, ad esempio, che è la cosa più noiosa in assoluto della cosa. Come sarà? No. Scusi, il concorso? No, il concorso ci sarà ancora, sì. Qual è la novità eclatante? Guardi, ci vogliono per questo. Ah, proprio per il concorso. Allora, faremo un bellissimo concorso, ma parleremo anche di bellezza in senso anche più colto, diverso. Ah, volete fare gli intellettuali perché siete no, alla 7. No, non vogliamo fare volete fare il corpo delle donne, quindi una... Faranno sfilare no, anche no, Vittorio no. Sgarbi. Noi siamo nazionali popolari e ce ne vantiamo. Appunto, è stata la nostra forza. Vai. Però è chiaro che anche noi abbiamo voglia di cambiare e ci allineiamo, diciamo. Vabbè, ma ci dico una novità, poi... ci dico una novità. Una cosa, sola. Io la novità non. Innanzitutto, vabbè, voi sapete chi sono i conduttori. Vabbè, ma quello è già stato. Il conduttore è già uscito. Non c'è. E poi non c'è la novità. Resto, no, la novità, vi dico che. Ma c'è la zona mentana allora. È veramente diversa. Non ve la posso svelare, però ve la diremo in seguito. E perché non invitate Mentana? Perché non invitate Mentana? Mentana è invitato già, è il primo a essere invitato. Cioè lo volete magari come capo della giuria, sarebbe fantastico, il capo del presidente sarebbe della anche interessante averlo come ecco, faccia un appello qui, dalla Zanzara. Ecco, detto, faccia il presidente della giuria, si ricrederà su Miss Italia, lo fa. Chicco, ti aspettiamo a capo della giuria. O no? Ecco, va bene. Lo dica lei. Allora. Lo dica lei però. Aspettiamo a capo della giuria, non vediamo l'ora che tu sia con noi. Oh, benissimo. Oh, vede, vi avete dato un'occasione in più per fargli questo invito, che era già stato fatto ad ogni modo, ma ufficialmente lo faccio con voi. Porca la puttana, è andata a fanculo! Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Mentre i palazzi della politica stanno discutendo della questione dell'amnistia, dell'indulto dopo l'appello di Napolitano e il messaggio letto oggi da Grasso al Senato sull'amnistia, indulto, diminuzione dei reati, rafforzamento delle carceri e quant'altro, insomma vogliono liberare un po' dei delinquenti, diciamo la verità, vogliono liberare un po' di delinquenti, vogliono liberare un po' di delinquenti. Io sono sicuro che Emilio Fede è d'accordo con me. Beh, per certo, la prima volta credo forse. Che è d'accordo. No, mica perché è stato condannato, scusa, come no? Io sono condannato? No, non lo so, non mi hanno detto niente. Non ho saputo niente. Lo vedi a distrarmi con voi, vedi la giustizia, sono stato condannato. Allora che mi danno un... Ma scusa Emilio, ma sei a favore dell'amnistia dell'indulto? Che ne so io, è una misura di civiltà. Nessuno mi ha detto no? Niente. No, non lo so. Ma tu, ma Berlusconi, dove lo manderesti ai servizi sociali? Da Tommazzi? Servizi... Da Tommazzi no. No, poi che c'ha delle cose sgradevoli. No, che c'ha? Non lo so che c'ha. Però lo conosco da sempre. E perché ha detto quelle cose? Ma chi lo sa, per farsi pubblicità. Dici? Sì, ma sì, i pomodori, i cessi, altre cose che non si possono pulire, i cessi, dire, i pomodori, no, c'è altre cose, cose. No, per favore presidente, un appello, non andare da Tommazzi, vai dove ti pare, vuoi andare ad Antigua, vuoi andare a Santo Domingo. Tu invece no, ti no. Hanno mandato ai domiciliari. Alle Belve, a Radio non Belve. Non hanno detto. Ah, sì. T'hanno mandato. È vero, a dopo Radio ne parliamo. Belve. Allora, intanto c'è ancora Patrizia Merigliani con noi che è il che è insomma, l'inventrice, la guida assoluta di Miss Italia. Ma perché Mediaset per esempio non vanno voluto? C'è mai stata una trattativa? Ma guarda, io ho letto di tutte queste trattative sui giornali, ma in realtà trattative portate avanti fino in fondo per dire poi non ci sono mai state, cioè non ci sono, cioè, mai state con Mediaset conferme. Non ci sono mai state, cioè non me volevano, ci sono direttamente state delle trattative a livello embrionale, ma mai portate avanti a tal punto da dover dire dopo guarda che, ma scusi, però sta missidale non è un po' finita ormai come manifestazione? Ma assolutamente no, cioè dopo tanti anni uno cambia, io ho Miss Italia ogni volta con sta sfilata di ragazze, è una tradizione. Anche no, ma io dico così, qualche volta basta col Natale, però tutti poi amiamo il Natale. Cioè, come il Natale, cui, dice lei. È come il Natale, è una tradizione. Insomma, guarda, in questi giorni che Miss Italia, insomma, dovrà andare in onda a settembre e tanta gente ancora non sapeva. Sì. Mi fermano per strada e mi dicono, ma ci sarà ancora Miss Italia? Vabbè, la adesso addirittura come... la gente la ferma per strada e chiede... Ma ti assicuro, no, ti vabbè... Ma io non ho capito una cosa, per esempio la Boldrini ha partecipato al tiro a Miss Italia, il presidente della Camera, io l'ho sempre criticata per questa cosa perché se deve fare gli affari suoi, non è che la sta Boldrini lì. La Boldrini è una bella donna, penso che... Cioè la farebbe sfilare? Ma oggi non la farei sfilare perché il regolamento non lo prevede. Meno male. Insomma, beh, però, potrebbe tranquillamente, farebbe la sua bella figura. Avrebbe potuto, secondo me, in età da Miss, essere una bellissima Miss, per cui figuriamoci. Ma sfigurerebbe oggi con le ragazze là, no? No, anzi l'ho invitata. Allora, devi pure lei è invitata. Come l'ha invitata? Perché ho detto, beh, insomma, visto che ne abbiamo parlato tanto, conosciamoci finalmente e sono contenta che lei venga a vedere anche un pochino il mondo delle Miss. Per cui che fa? Questo mondo ma verrà Miss Italia? Allora, io ho rivolto l'invito, le ho mandato una lettera, mandato un invito ufficiale attraverso la stampa, però lei mi ha risposto attraverso una comunicazione riservata sua, dove ha detto che ci incontreremo in seguito. Vabbè, ha detto di no. Certo, non sarebbe bello averla alla serata di Miss Italia, vediamo se ci riusciamo. Ah, poi l'obiettivo è avere Boldrini alla serata. Vabbè, insomma, invitate a Boldrini, Mentana, e fate una cosa, cioè, dovete poi stare... Ma datemi una mano voi, che ho visto che siete così attivi. Allora... Chiamate la Boldrini e ditele, Patrizia vuole. Noi non so se abbiamo rapporti così stretti con la presidente, possiamo lavorarci, diciamo. No. Però so che potete lavorarci. Com'è che si chiama la Boldrini? Com'è la storia la Boldrini? Mi fai confondere, poi dicono che sbagliano Baldretti. No, Boldrini. Boldrini. Ma Boldrini è la terza carica dello Stato. La terza. Ha avuto una corrispondenza riservata con la Patrigliani, con la Mirigliani. Con la Mirigliani. Sì, un fatto riservato. Scusa, un fatto riservato. Il direttore ha ragione. Lei va dappertutto, tant'è che io ho detto, ma ci stancherà. A noi ci ha stancato. La Boldrini. No, la Boldrini. Boldrini. Boldrini. Ma perché mi confondete? A me fate fare una figura del piffero. Io con voi non gioco più. Noi, vabbè, siamo, insomma, sono uscite fuori due cose. Che lei vuole, Mentana, vorrebbe, come sarebbe proprio una cosa pazzesca. Mentana, presidente della giuria della Miss Italia. E la Boldrini alla serata finale. Io le dico subito che tutto questo... non si realizzerà. Io sarei contento di questa situazione. Cioè, a questo punto possiamo anche chiudere Miss Italia, diciamo. Potremmo anche chiudere dopo quest'anno, no? Così basta. Ma guardi, io penso che dopo quello che ha passato quest'anno Miss Italia, se non l'abbiamo chiusa, non la chiuderemo mai più, perché è stato un anno particolare. Però, ma quanto diciamo vale, mi ricordi, l'evento, quanto vale? Quanto costa l'evento complessivamente? Guardi, l'evento io ve lo farò sapere a breve costa, ma non sono le cifre sicuramente che sono state dette. Quanto costa? Che ne so, io non so quale cifre ci sono. Ma, il costo dipende, sopra la linea, sotto la linea, ecco, dipende dagli ospiti che si Ma lo volevate dare gratis, quasi gratis alla RAI, lo volevate dare, quasi ma gratis. Scusi, io l'avevo detto che era gratis, assolutamente. Io quest'anno la prima cosa che ho detto... è che volentieri l'avrei fatto gratis, perché dopo 25 anni di collaborazione fattiva uno poteva anche pensarci. Se c'è la crisi, come c'è la RAI, insomma, ha lamentato di avere dei problemi grossi così. Comunque lo sai che io non ho mai visto, credo, più di 5 minuti, ma è una mia responsabilità, non ho mai visto più di 5 minuti, io non lo so, sarà un mio difetto, ma non ho mai visto più di 5 minuti. No, ma lei non l'ha mai vista più di 5 minuti quando era in Rai, adesso per la 7 la veda. Vabbè, vediamo. Grazie Patrizia Migliani. Ciao Patrizia. Sei ancora a casa? Sì. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai. Dai. Ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a zanzara mi son messo il piede. Ma lei... Cornute che non sono out! Questi sono dei cornuti! Giuseppe, Davide, vi voglio bene! Davide e Giuseppe, vi voglio bene! Vi voglio bene! anche l'altro. Prendila, prendila, scazzala, scazzala, ti ho beccato. Abbiamo una partitocrazia come tale, è una partitocrazia erede di quella precedente. Quella precedente si era chiamata come partitocrazia per 20 anni fascista, ha preso l'eredità chiamandola antifascista. Questo è un po' il connotato nel quale operiamo tutti quanti. Ai, ai, ti ha beccato, ai, ai, ti ha beccato, come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio. Siamo qui, con un po' di confusione qui perché Parenzo entra, esce, parla al telefono. Ma 800 24 00 24. Per Asgardi, titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Severo messaggio di Napoletano sulle carceri, valutare l'ipotesi di amnistia e indulto, l'Italia in posizione umiliante agli occhi del mondo. Letta, messaggio ineccepibile dal governo, massimo impegno, 5 Stelle contro il Presidente, la replica, loro se ne fregano della gente. Il PD ritira l'emendamento per l'IMU sulle case di lusso, impegno del governo sulla service tax, cuneo fiscale, squinzi, servono 10 miliardi. Decadenza di Berlusconi, il 15 la giunta per il regolamento discuterà la richiesta dei 5 Stelle sul voto palese, i tempi si allungano. Fermato a Lampedusa lo scafista del naufragio, i testimoni si faceva chiamare capitano, l'Europa piano congiunto per i soccorsi. I nubifragi mettono in ginocchio la Puglia, almeno 2 morti travolti dall'acqua, 3 dispersi, danni anche in Toscana e nel Lazio. È un po' italiano il Nobel agli scopritori del bosone di Higgs, la conferma dell'esistenza della particella arrivata dagli studi del CERN coordinati dai nostri scienziati. C'è uno che mi scrive e davvero ha ragione, sentite, sentite questo qua. Ma come, è 5 anni Pannella che Pannella parla di amnistia, di indulto eccetera, adesso c'è da salvare Berlusconi, arriva Napolitano e dice che ci vuole l'amnistia o l'indulto. È una presa per il culo, dai. È una presa per il culo, perché l'amnistia e l'indulto arriva quando? Arriva quando conviene alle forze politiche. Vabbè, questa certo. È la realtà. Siccome adesso conviene fare amnistia e indulto, a parte una che una norma di civiltà, parte che Berlusconi. A parte che Berlusconi potrebbe anche non rientrare, alcuni dicono che potrebbe non rientrare. Comunque è una presa per il culo, dai, è una presa per il culo pazzesca. Vogliono liberare un po' di delinquenti perché non sanno che fare, non hanno fatto un direttore, cazzo. Direttore, spiegaglielo tu che la non hanno fatto un cazzo. Ma Pannella, sì, è Pannella. Ha parlato con noi? Sì, sì, e che sta dicendo? Non ho capito, ma cosa dice? Si inserisce ogni tanto. Non capisci un cazzo. Io Marco sono Emilio. Come sono Emilio Fede? Come te lo scu cazzo? No, non era rivolto a te, era rivolto a Cruciani. Ah, Cruciani. Sono d'accordo? Oh, no, non sono d'accordo. Allora, c'è una straordinaria imitazione di Razzi da parte di Crozza. Crozza imita Razzi. Io ho detto straordinaria, però insomma così così, eh. Ukulele! Ukulele! Onorevole Razzi, lei è appena stato in Corea del Nord, come si è trovato? Ah, guarda, se te devo dire, è stata un'esperienza proprio de meraviglia, della meraviglia, che questa strada pulita che mi ricordava un di 40 anni della mia Svizzera e che in fondo mi sono divertito. Ancora, ancora. Però in Corea del Nord non ci sono i diritti civili. No, no, io questo non credo, anche no, perché sono. Loro prendono, li ho visti mangiare delle con l'autobus che andavano di qua e di là, questo l'autobus, pulizia non ci sono della precisa sono diritti, Svizzera. Ma non ci sono i diritti civili? No, no, no, questo non credo, anche perché è 3 milioni e 3. Ma cosa stai dicendo? Lei sa cosa diciamo sono i diritti civili? Perché fa paura 3 ho capito, milioni e 3. Lei sa. Manderemo Emilio Fede anche in Corea del Nord. Inviato in Corea del Nord. Ci sono già stato, mi hanno espulso. In Corea del Nord? Sì, si sono andato a ballare in un posto che non dovevano andare a ballare, mi hanno espulso. Dai comunisti. Sì, certo, ma l'ho visto. Via. Perché tu non sei mai stato comunista, tu hai passato per la handicamera del cervello proprio. Ma che sei scemo? Ma prima, prima di votare Forza Italia, no? Tu votavi, sì. Socialista votavi. Sì, è vero. Ero prima saragattiano e poi craxiano. Pure. E oggi? Pure, alfaniano. Pronto? Emilio? No, Alfano. Alfano. Sì, ma quanto ti fa schifo Alfano? Quanto col fatto che non si capisce mai che nome quanto di cosa dite? Quanto ti fa schifo Alfano? No, non mi fa schifo niente. Non mi trascinate in questo, anche perché domani... Domani sei in onda con noi in diretta. Possiamo dare questa anticipazione? Possiamo dirlo. Emilio Fede, inviato in esclusiva di Radio Berba, domani su Rete 4 alle 21, e sarà inviato dove? Porca miseria. In mezzo ai comunisti? Sì, tutto bandiere rosse. Te fanno un paio di domani, lo sai, no? No, però diciamolo, il SEL... Sono i veri conosci comunisti. Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay, presidente di Gaynet? Lo conosco di nome e lo rispetto. Grillini, buonasera. Grillini, buonasera Grillini. Ciao Franco. Ciao. Se, dimmi una cosa. Ciao, ma, Palenzo, ciao Cruciani. Perché ciao, hai fatto? Perché l'incontro con Barilla, amico mio, l'incontro perché? Con Barilla. Ma che bisogno c'era di sottoporsi a questa cosa, a questa sorta di... Beh, bisogna dire a Barilla, non a lui. Sì, non a te, perché lui non c'entra niente. Barilla ti chiama. È venuto lui a trovarci. Ah, vedi. Ma com'è stato questo incontro? Tra l'altro, devo dire che io sono un po' del campo, no? In che senso, scusa? Perché sono presidente di Miss Tagliatella. Presidente onorario. Da quando? Mi occupo di alimentazione, mi batto da anni perché venga riconosciuto il mestiere di sfoglina, che esiste da 5 secoli e non è ancora riconosciuto. Ma perché cos'è Miss Tagliatella? Scusa, sono presidente della Commissione Politica Economica della Regione Emilia Romagna, quindi ho anche agricoltura e agroindustria. Insomma, un po' me ne intendo. No, ma Miss Tagliatella, che cos'è? Lui è venuto a trovarci. Franco, Miss Tagliatella, che cos'è? La tagliatella bolognese? No, Miss Tagliatella, che cos'è? Una roba dei gay? È un concorso che si fa tutti gli anni per ma tra gli omosessuali? Selezionare il vincitore o la vincitrice, perché adesso lo sfoglia la fanno anche i maschi, se Dio vuole, che è un concorso di carattere alimentare per vedere il più bravo di quelli che la fanno, si fa a mano. Ah, ma non è una roba di gay, non è una roba di gay, dico. No, c'è di tutto. C'è di tutto, cioè, ma non ho capito Franco, ma eterosessuati, vi sento pianissimo però. Ma io infatti ti sento proprio zero, cioè, ti sento pochissimo. Scusa un attimo Franco, ma com'è stato questo incontro? Che occhi aveva, che faccia aveva il signor Barilla? Proprio lui è venuto. Non era contentissimo dopo il casino che è successo. Perché... ma era emozionato, era quasi, com'era? Raccontaci un po' la sua faccia. Com'era? Era lì per sentire quello che avevamo da dirgli, anche per dirci le cose che poi lui ha detto nei video, sostanzialmente ha ripetuto ovviamente le scuse, ha detto che io gli ho ricordato la famosissima vignetta di Altan, che di tutte quelle che ha fatto e quella che preferisco, dove c'è l'omino che dice mi vengono delle idee che non condivido. E io ho detto eventualmente è successa questa cosa qua, e lui ha confermato che insomma ha detto delle robe che poi anche lui risentendole non le condivideva per niente, poi ci ha raccontato la sua storia, la sua vita, dice, cioè, anche lui aveva un amico gay, testimonia che io proprio non si può dire tutto di me tranne che io sia un omofobo. Vabbè, tu ci credi? Qualcosa tra l'altro mi è stato confermato. Ci credi o no? Ci credi o no a questa roba? Come? Ci credi o no a questa roba? Ah, io sì, guarda, io sono anche psicologo, le vedo le persone, pure. Quindi onestamente a me è sembrato sincero. Tra l'altro abbiamo fatto questo incontro senza televisioni, senza fotografi. Poi è un bell'uomo, tra l'altro, no? Beh, dipende dai gusti, Beh, a te piace sicuramente, io un bell'uomo. Ho altri gusti, credo anche lui. No, lui sicuro. Lui ma sì. Lui è abbastanza evidente. Almeno che tu non abbia notizie diverse. No, non si sa mai. Non si sa mai? Non si sa mai, dici. In che senso? No, cioè, penso che, come dire, magari... Potrebbe essere un cripto gay, no? Detto, di sicuro, poi... Sì, è vero. Se non scateriamo anche Grillini, voi, magari un bel giorno fate coming out. No. Beh, quello mi sembra, però quello comunque mi sembra difficile. No, però scusami un attimo, Franco, è veramente un bell'uomo, cioè, viene riconosciuto come uno veramente bello, cioè uno che è stato nel suo genere, sì, è un uomo che ha superato la cinquantina, forse arriva a te piacciono. Non so qual è l'età. Però a te piacciono gli uomini, Emilio? Aspetta, Franco. No, io in questa vicenda non ci voglio entrare, non ci sono. Sei omofobo, Fede, direttore. Io sono rispettoso, e qui lo dico seriamente, di tutto ciò che è amore, qualunque esso sia. Ma ci hanno mai provato con te? Ci hanno mai provato? In che senso? Un omosessuale ci ha provato? Beh, voglio dire, forse non me ne sarò accorto, comunque non me ne sarei sentito. Chi è la persona offeso. Che sta parlando? Sono Emilio Fede. Ah, Emilio, ciao. Ciao, ti saluto, stavo dicendo il massimo rispetto che io ho per tutti, quando è amore, per me è amore. Bravo. Va bene, ciao Franco, ciao Emilio, ciao a tutti. Scusate, no, è domani sera alle 21:15. Ma l'abbiamo già detto noi. Domani 21:15? 21:15 torni. Su Rete 4 tornano. Chi torna? Emilio Fede. Emilio Fede torna. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Albertini, vieni giù che sei frocio pure tu. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. Comunque la mia opinione è che con questo incontro assurdo tra Grillini e Guido Barilla, il signor Barilla, che per carità ha tutta la mia solidarietà, il boicottaggio è una puttanata, però si stia un po' appecoronando al mondo omosessuale. Che bisogno c'è di andare lì a fare il bacio della pantofola? Ma magari ha voluto semplicemente, come dire, chiedere scusa. Dai, su, il bacio, ma che bisogno anche c'è? Elegante, dai. No? Dicevo che ho offeso qualcuno, dai, vado dal su. Simbolo della comunità e gay, dai. E chiedo scusa, no? Tu non hai mai chiesto scusa a nessuno per... Ma dai, per le boiate che ogni tanto scappano, non hai chiesto scusa a nessuno. Dai. Ma come dai? C'è la rieducazione, una specie di rieducazione. No, dai. Ma quando uno sbaglia chiede scusa. Dai, ma uno non sbaglia. Ma sei come Fonzi tu, non chiedi mai scusa a nessuno. Non è questione di chiedere ma che sto scusa. Dai sotto di sto Mughini, basta. Dai, si è appecoronato, si è messo là a... È una persona educata. Non è il termine giusto in questo caso. No, qualcuno può dire che c'è un malizia su... No, double però, meanings, dai, diciamo noi americani, double meanings. Ma tu non ti è mai capitato di chiedere scusa a nessuno, sei il Fonzi della radio. Ma sei. Non è questione di chiedere scusa, non c'è bisogno di chiedere scusa quando in questo caso. Quando uno sbaglia chiede uno scusa. Uno ha detto dei una cosa civili, che no? È venuta fuori dal cuore, dalla, come dire, dall'intimità. Ha sbagliato. Ma perché ha sbagliato? Puoi chiedere scusa, anche tu, se ti capita, alle volte, puoi chiedere scusa. Ho detto una boiata pazzesca, chiedo scusa. Francesco da Pescara, 800 24 00 24. Dica. Francesco? Vabbè, Davide da Trento, richiamatemi questo Francesco, dai, Davide da Trento, dai. No, buonasera carissimi. Dica. Dico, va, io caro Cruciani volevo fare una riflessione su questa dittatura di subumani che ci domina, no? Sì. Guido Barilla che dice una cosa ragionevolissima, che gli tocca prostrarsi per, come dire, tenere in piedi la logica che ormai si è persa. Il vostro amico Fede che... Anche lui, poverino, deve chiedere scusa ad ogni giorno per passato, no. Che ormai, francamente... Ma veramente non chiede scusa a nessuno. Comunque, beh, al di là di questo... Avete ragione, non chiede scusa, però insomma c'è questo clima di cielo plumbeo anche su di lui, come se venisse dall'inferno, invece che da una carriera normalissima. Vabbè, dai Davide, su, andiamo avanti, poi... Ma poi c'è Crimi che dice le peggio idiozie, tutti che si scandalizzano. Cioè io sono francamente un po' stufo di sentire idioti presi in considerazione. Gli idioti dicono idiozie, punto, no? Cioè non mi pare che ci sia da stupirsi di questa cosa. Vabbè, ma Crimi adesso però non faccia così, non generalizzi, non metta tutti insieme. Lei ha detto una cosa sul signor Crimi. Effettivamente il signor Crimi ha detto una puttanata. Cioè era nella giunta che doveva... decidere le sorti di Berlusconi, e mentre era lì a votare in giunta faceva tic tic tic tic su Facebook, esatto, scrivendo che Berlusconi ha la prostata e dunque incontinente eccetera eccetera. Non è bello, esatto. Vabbè Davide, grazie, cioè non è bello, lo posso fare io, lo può fare Parenzo, lo può fare qualsiasi altra persona, non lui che sta lì a giudicare Berlusconi. Su, dai, sei inadeguato, quando uno è inadeguato è inadeguato. Claudia da Como. Pronto, mi sente? Sì, dica. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Senta, io volevo intervenire sul dramma Minoli. Ma qual è il dramma Minoli? È l'uomo che dalle 9 alle 11 vi sta piallando gli ascolti. Ma che ne so, ma che ne sa lei? Che ne sa, che ne può sapere lei? Sì, non parli da ignorante. Ma chi è questa qui? Audi Radio, chi è questa? Non lo so, è una che interviene così, senza sapere. Ma senta, ma gli avete spiegato che è in radio e non è in televisione? Senta, ma a noi non ce ne frega un cazzo, questo è il punto, ha capito? Ma fate qualcosa, fate presto, perché quella trasmissione lì... Vabbè, a lei non piace. Anche la cazzo della fregia. Vabbè, comunque, guardi, qua c'era scritta un'altra cosa, lei vuole fare la paracula, ma lei può intervenire su qualsiasi cosa, non è un problema. Lei voleva raccontarci gli accordi nascosti tra Pannella e Berlusconi. Guardi che a me non me ne frega niente, lei può parlare male di Minoli o bene di Minoli, guardi, qui... Quella trasmissione lì è di un pedante allucinante. E vabbè, a lei non piace. Ma chi ha fatto quel palinsesto? Vabbè Claudia, ci sono l'80% delle persone che ci chiamano che dicono che noi facciamo schifo, ha capito? Per cui non ci impressioniamo di fronte a queste e cose. Poi ascoltano. Ma fate qualcosa. qualcosa, però vabbè, diteglielo. Che vabbè, ho capito. Brava, brava, Dino, è stata furba, ha fatto la furbata del secolo. Dino da Milano, buonasera, ha fatto, pensa di essere furba questa qua. Ma chi è? Dino da Milano. Gli piace, sì, così. Buonasera, Cruciani. Cioè, pensa di essere paracula, ha detto che voleva intervenire su argomento e poi interviene su un altro argomento, una cosa nuova. Al centralino. Una cosa nuova in realtà, no? Cioè, una cosa nuovissima, nuovissima, ma vai, e dai. Dino, mi dai. Mi sente? Sì. Ok, allora, prima io voglio fare una prefazione. Piccola, no, la prefazione piccola. No, la prefazione non si fa, perché la prefazione si fa nei libri. Prefazione, dai, per postfazione. No, la, allora la prefazione non si fa. Faccio una piccola critica, posso? Ma lei può fare quello che vuole, basta che si sbrighi. Bene. Allora, io parto subito. Siete due animali. Vabbè, perché d'accordo, tenete incollato milioni di radioascoltatori. Beh, ore e ore. E più li tenete lì, più piacete. E questo, chiuso, bon. Io avrei un piccolo handicap da fare per Berlusconi. Ma ai servizi sociali, sì, io metterei Schettino su un bel transatlantico, Berlusconi che fa l'intrattenitore Berlusconi nella situazione, e poi, ma questo anche Emilio Fede, ci sta anche lui. Vabbè, d'accordo. E il ministro Kyenge che li porta tutti, diciamo, sulle coste africane a prendere quella gente che non possiamo lasciarli morire. Ma carichiamoli e portiamoli tutti qua, ma che cavolo aspettano? Va bene, grazie Dino. Adriana da Milano, vabbè, sta sbroccando, insomma, è normale. Sì, dica. Buonasera Cruciani, ascolti, io chiamo, volevo un chiarimento, non so se da chi. Ieri sera ho sentito l'intervento di Don Mazzi. Allora? Sì, sì, la sento. Dica. Pronto? Oddio, la sento! Sì, allora, volevo sapere, siccome sono una media cristiana e so che i tempi di Dio... Ma che vuol dire media? Non ne posso più. No. Che vuol dire media cristiana? Che vuol dire media cristiana? Insomma, così, praticante... un po' bassa terra, diciamo. Bassa volevo terra. Sapere, siccome i tempi di Dio, io so che il purgatorio e il paradiso mica sì, sono un anno, due anni, quattro secoli, come fa lui a dire, glielo va a dire al Padre Eterno che se lo tenga Berlusconi per quattro secoli in purgatorio? Non ho capito di che no, cosa, scusi, non di che ho perso il filo parlando, della cosa, scusi. Di cosa parla? Allora, Don Matt, mi rimettiamo in ordine. Guardi, soggetto, verbo e complemento oggetto, questa è la struttura sì, base di qualsiasi frase. Allora, lei si chiama? Adriana. Ecco, allora, Adriana, due punti. Io penso, prego. Io penso che i tempi di Dio, quando ecco, già qua, io penso che i tempi di Dio, purgatorio. Cioè lei non capisce, penso, signora mia, che già una che inizia dicendo "Io penso che i tempi di Dio", poi succede "Io penso che i tempi di Dio non coincide col tempo nostro". No. Ecco, già questo, a casa mia, meriterebbe l'interdizione perpetua dalle radio mondiali. Io penso che i tempi di Dio... Com'è? Non lo so, io... No, e non io lo so neanch'io, allora! Se non lo sa lei, io penso che i tempi di Dio non coincidono... Con quelli nostri, con quelli terreni. Vabbè, e che cazzo vuol dire questa roba? Come cos'è? Come fa? E adesso arriva Don Mazzi. Non c'è costrutto nella frase. Nulla, non c'è senso di niente. Io penso che i tempi di Dio... Come fa Don Mazzi? Che frase è? Come fa Don... Ieri sera, ascoltate. Ma come adesso c'è ieri sera? Ieri sera Don Mazzi ci vuole detto, un soggetto. Ascolti me. Ieri sera Don Mazzi ha detto io spero che Dio tenga Berlusconi quattro secoli in purgatorio. Sì, quattro secoli in purgatorio. Sì, ma era una frase detta da signor Don Mazzi. Una metafora, poteva essere un modo di dire. Vabbè, allora... Sì, sarà una... Ma io volevo spiegato... metafora... Sì. Allora è inutile che glielo chieda al Padre Eterno. Ma è inutile tutta la telefonata. Perché io mi sento spiazzata da cristiana. Ma è tutto inutile a partire dalla telefonata. Perché aspetta, la signora dice che non si può, non c'è il purgatorio, non si può dare una temporalità, capito? Non c'è il tempo. Ma non è da ragionare. Non c'è. Abbiamo capito. Vabbè, sì, Adriana, l'abbraccio, la bacio fortissimo. Non si arrovelli troppo. Non si arrovelli troppo. Non si arrovelli troppo. Vediamo quanto mi tiene a mente in inferno. purgatorio, il Padre Eterno. Glielo chiediamo a Don Mazzi. Va bene, grazie signore. Oh, in collegamento dal Sudan abbiamo il fondatore di Emergency, Gino Strada. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Come sta? Come pensa? Bene, si lavora bene. Senta, lo sa che da poco, da pochi minuti, le voglio dare una notizia che viene dall'Italia, dottor Strada. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha annunciato urbi et orbi alla Camera, al Senato, eccetera, eccetera, che vuole proporre un provvedimento che bisognerebbe proporre, bisognerebbe che il Parlamento facesse l'amnistia, l'indulto, oltre naturalmente a provvedimenti sulle carceri, eccetera. Qualcuno sospetta, qualcuno un po' maligno, sospetta che i tempi, siccome si parla della questione dell'amnistia, dell'indulto e delle carceri da un sacco di tempi, da un sacco di tempo, qualcuno sospetta che possa essere un provvedimento, insomma, un po' per salvare Berlusconi, gliela dico così esplicita, per salvare Berlusconi. Lei pensa da lontano, lì dal Sudan, che sia una critica che si può fare a Napolitano? Ma io sarei voi adesso questa notizia. Non lo so, ho sentito parlare da anni e anni che ogni volta che usciva un avviso di garanzia per qualcuno delinquente, pregiudicato, noto, si parlava di bombe, orologeria da parte dei magistrati. Ecco, non vorrei che cominciare a tirare bombe, orologeria, c'erano anche le più alte istituzioni dello Stato, ma questa è proprio così una prima impressione a caso, insomma. No, però il momento mi sembra un po' sospetto, ecco. Ecco, no, ma su sospetto. Questo io devo dire la verità, io su alcune cose posso non essere d'accordo con quello che dice Gino Strada, però da questo punto di vista devo dire che il fatto che oggi la Lega e Grillo... Cioè state dicendo sia no, tu che il dottor Strada che Napolitano lo fa per salvare Berlusconi? No, no, no, no, io credo che sia questa la cosa, a parte che io lo penso che sia così, penso davvero che sia così. Malissimo in questo momento. Lo so, è in Sudan, per forza, non ci, no, evidentemente ci sentiamo così così. Però è interessante questa cosa, perché io sono d'accordo con lei. Io penso che questo provvedimento, siccome poteva essere preso, questo messaggio sull'amnistia e l'indulto poteva essere fatto un anno fa, sei mesi fa, due anni fa, tre anni fa, sia fatto apposta dopo che è continuato il governo delle larghe intese per salvare Berlusconi. Sì o no, secondo lei, signor Strada? Ma io non mi spingo fino a tanto, perché mi rifiuto di pensare che la più alta carica dello Stato, che dovrebbe garantire la Costituzione, faccia una proposta del genere con l'intenzione di salvare un pregiudicato condannato. Sì. Mi sembra, come dire, mi sembra talmente grottesco che non voglio credersi, proprio non voglio credersi. Però, sarebbe però una gravità senza precedenti. Però il sospetto ce l'ha, mi dice lei, il sospetto viene. Beh, il sospetto, insomma, diciamo che se uno sta fermo al marciapiede aspettando di attraversare la strada e quello che è vicino fermo anche lui, gli schiaccia un piede e glielo rischiaccia, il sospetto che voglia farlo apposta, credo che sia legittimo, ecco. No, anche perché, come dire, come lei sa, Napolitano è lo sponsor del governo delle larghe intese, diciamo la verità, insomma, e se Berlusconi in qualche modo viene... Sì, io come posto di queste cose, certamente ho già detto, come dire, in occasioni recenti, che mi preoccupa molto che il garante della Costituzione rischi di essere quella persona che la Costituzione non la fa rispettare. Dov'è che non la farebbe? Potremmo dilungarci molto, a cominciare per esempio dall'argomento della guerra, su cui la nostra Costituzione è molto esplicita, molto chiara. Ma scusi, secondo lei, paese, sì, secondo lei, governi di un tipo e dell'altro, insomma, è in guerra da una dozzina di anni. Aspetti, dottor Strasi, professore, la richiamiamo un attimo che abbiamo un'interferenza dal Sudan. Andiamo a Torino, Marco, buonasera. Marco. Sudan, buonasera Cruciano, buonasera Parenzo. Dica. No, niente, io penso che abbiate perso un'occasione di fare un'intervista simpatica e divertente a Emilio Fede. Perché secondo me Emilio Fede... ogni giorno le facciamo, le facciamo ogni giorno. No, ma le spiego perché Emilio Fede è un giornalista che le cose più interessanti che ha detto in tutta la sua carriera, le ha dette solamente quando è stato intercettato. quando ha parlato di sesso orale e del vrecci del sesso orale. Là è stato interessante. Per tutto il resto i miei figli ci sono stronzate. Cioè, io non ascolterei neanche l'intervista. Io direi, intercettiamo Emilio Fede facendo finta che... Ma quello è sempre una cosa meravigliosa, come lei sa, cioè le telefonate nascoste, le telecamere nascoste, la verità, la verità che viene fuori. Qualche volta si può raccontare, qualche volta non si può raccontare, caro Marco. Noi cerchiamo di raccontarla per quello che ci è possibile fare, non è che possiamo rubare le telefonate e mandarle in onda, le intercettazioni, rimandarle continuamente in onda. No, magari facendo, ma magari mettendosi d'accordo con lui, perché sai, sotto intercettazioni magari mettendosi d'accordo con lui. Cioè, se mi faccio capire perché stasera mi incazzo, cioè lei sta dicendo che uno si... c'è poco da ridere. Lei sta dicendo che uno si deve mettere una palla a sentirlo che gli fai l'intervista. Ma che ti vai a dire, Emilio Fede, se gli guarda, abbiamo fatto miliardi di interviste, Emilio Fede tutt'altro che una palla. Grazie. Mauro da Bologna, buonasera Mauro. Un piccolo appunto alla sua conduzione. Io l'ammiro, l'ascolto da tanti anni, sì, in radio, e ammiro la sua chiarezza, la sua schiettezza. L'unico appunto che voglio fare è, non capisco perché ultimamente usa un linguaggio un po', diciamo così, non adatto all'orario in cui trasmette. Tutto qua. È una lunga discussione, la superiamo questa discussione, a parte che non capisco quale sia il linguaggio adatto o meno adatto, ma ha idea di come parlano i politici, lei, o no? Di come parla ogni tanto la politica, delle espressioni che usa o no? E allora, qual è il problema? No, però durante questo orario qua usare dei termini che non sono proprio, insomma, cioè consoni, ecco, se a lei dà fastidio c'è un solo mezzo, come lei sa, no? No, ma no. Ma allora, se non le dà fastidio, qual è il problema? No, qual è il problema? È un modo di parlare che poi usa anche la gente, quindi non mi sembra, appunto, cioè la lingua italiana, come l'ha detto anche altri ascoltatori come appunto me, dico, ha tanti termini, è inutile, sì, che lei mi dice spegni la radio, va bene, certo, spegni la radio, si sposti su un altro canale, se gli dà fastidio, metto delle cuffie, va bene, capi, ma... cerume, delle orecchie, metto delle cose, grazie, cosa vuole che le dica? Cioè, ci dispiace, ma è così, cioè, questo mi dispiace, ci dispiace molto, tantissimo, no, ma è molto così, di più di tantissimo, va bene, d'accordo, buona serata, arrivederci. Raffaele da Brindisi, buonasera Raffaele. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica, io dica. Seguo la Zanzara da quando è nata, anzi era di 24, quando è nata la Zanzara mi insegui e avete avuto un gran successo. Adesso ieri sera che vi ho visto in televisione con l'annuncio che Emilio Fede sarà un vostro, non so, coadiuvante, lavorerà no, con voi. Inviato. Vabbè, ma qual è il problema? Adesso non parliamo di questo, inviato. Chi se ne frega, su Raffaele, stiamo facendo la radio, non parliamo di questa roba qua. Come no, serve parlarne, perché voi dovete andare in televisione. Vabbè, allora, su, andiamo, dai, forza. Ecco, io vi stavo così, ho intuito, forse sbagliando, forse no, ho detto, è sempre quel gran figlio di Cruciani, perché... portandosi lo spaccaghiaccio che è riferito sempre a Rete 4 di Emilio Fede, loro con la loro pacchettina si metteranno dietro e si faranno conoscere al grande pubblico di Rete 4. Vabbè, ma qual è il problema? Scusi. No, io vi auguro con tutto il cuore che abbiate lo stesso successo che avete. Vabbè, con d'accordo, la ringraziamo molto. Benissimo, grazie. Questo. Silvano da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo parlare del questa proposta che ha fatto il presidente, non so, io mi sto domandando, con tutto quello che è già successo sulle strade, nelle città, qualche pazzo, adesso dobbiamo liberare anche quelli che sono in carcere. Poi la Boldrini e il ministro Chienzi, non so, questi tre personaggi dove vogliono arrivare, secondo me hanno preso una strada sbagliata, lì dobbiamo molto probabilmente mettere un momentino da parte. Ma mettere da parte come? Scusa, come mette da parte la Boldrini? Insomma, mi spiega? Sì, via, sparire. Via come? Certo. Via come? Ammazzarla? Che bisogna fare? Ma no, ammazzare non vale la pena ammazzare la gente, vale tanto la pena, muoiono da soli. Muoiono da soli, vale, che vuol dire, scusi? Non vale la pena, perché ammazzare la gente? Tanto muoiono da soli, no. Tutti dobbiamo morire. Vabbè, sì, d'accordo, certo. Vabbè, Emanuele da Udine. Sì, salve, buonasera Parenzo, buonasera Crussani. Dica. Intanto ringrazio Parenzo per la crociata per l'italiano corretto che sta facendo, perché la telefonata di prima è stata veramente allucinante. Un'altra cosa vorrei dire, ho sentito questa splendida notizia del nostro giovane presidente napolitano, no? Sì, allora? Beh, voglio dire adesso, ne abbiamo già fatto uno di indulto, no? Più di uno, l'ultimo, io le parlo delle parti mie, è successa una cosa allucinante all'ultimo indulto, cioè? Persone che sono uscite per l'indulto hanno commesso un atto terribile e mostruoso. Tu sei come una piccola zanzara. Uno scatenato Sgarbi. Berlusconi non esiste, non ha fatto nulla, sentite. La fine di un ventennio, ecco, in realtà questo... non è mai cominciato, cioè Berlusconi non esiste, non ha fatto nulla che fosse politicamente rilevante, umanamente va compreso, perché se tu metti in fila rispetto al destino dell'uomo le dichiarazioni di Don Mazzi sulla pulizia dei cessi, diventare matto se tu sei gelosa più di me, scappo sotto al letto, non poi parlare, sul PDL, sentite, gridare, tu sei come una piccola zanzara. La legge per cui l'hanno condannato a 7 anni per prostituzione minorile, l'ha chi fatta? Lui. Parliamo di leggi ad personam, parliamo di leggi talmente fesso che si è fatto le leggi per una banda di fessi, quella di i coglioni totali. Bene. E lui è il capo coglione, il capo coglione della cordata. Il metodo Gabanelli è molto peggio del metodo Boffo, cioè l'eliminazione dell'avversario. Ma Gabanelli ha dato delle notizie vere. Ma pensi, la ma velina anonima non era una notizia, ma era una cazzata. La velina del cazzo non è una notizia, è una velina. È una velina del cazzo, come dici tu. Scusami, è anonima, Vittorio, è anonima. Chi se ne frega che sia anonimo, tutto è anonimo. Ripeto che io non... Hai portato qua Bisignani, che è il culto dell'anonimo, è vissuto sempre nell'anonimato. La foto di Berlusconi col cane. Che l'estate mi tortura. Conclusione, questa foto secondo te che cosa significa? La fine. Ecco. La fine. Ci fermiamo qua, eh? Però una cosa tecnicamente vorrei osservare. Che una persona importante con una masa, ma fidanzata, normalmente ha una foto rubata, che vuol dire che te la prendono. Questa qui è una foto in posa. E questo, cioè, il dramma, questo dice. È il dramma. Lui si è messo lì tutto contento con questo affare bianco. Ma anche la faccia tanto contenta non ce l'ha, secondo me. Lo guarda con affetto, perché mi sembra meglio di Alfano. Zanzara, che la notte mi consuma, mi rende isterico. Ma ce l'abbiamo Crozza Razzi che dice prendi un vitalizio e non rombo un cazzo. Sentiamo. Capito, lei sa cosa sono i diritti sì, civili? Sì, ma anche perché tu lo sai cosa sono, caro amico, i diritti incivili. Hai fatto un po' i cazzi tua con questo modo di dire che sai cosa sono i diritti incivili. Prendete un vitalizio, porta via un cazzo, non me cazzo, cazzo, con la vasellina nemmeno. Scappo sotto al letto, non parlare, no. Eccoci qui, 800 24 00 24, sempre in collegamento con il Sudan, speriamo con una linea più chiara. Gino Strada, fondatore di Emergency, buonasera. Emergency. Ancora. Sì, buonasera a tutti. Eccoci, allora riprendiamo da Napolitano, su, perché lei teme Napolitano? Lei pensa addirittura che stia violando la Costituzione, Strada? Ma no, non si parlava della Costituzione, si parlava dell'opportunità in questo momento di uscire con questa proposta che avrebbe potuto essere fatta, lo so, qualche secolo fa. Sì, questo è vero. Le situazioni delle carceri italiane. Sì, sì. Allora credo che lui dovrebbe spiegare come mai gli è venuto in mente proprio adesso. E secondo lei perché? Non lo so, ripeto, si faccia venire qualche idea. Vorrei che dietro ci fosse, come dire, anche il desiderio di dare una mano a qualche pregiudicato molto noto, ecco. Molto noto, molto noto. Un nome molto a caso. Noto, sì, quei delinquenti abituali, quelli che si vantano di avere avuto 50 avvisi di garanzia, 700 processi, 47.000 prescrizioni, eccetera, eccetera. Non viene in mente nessuno. Non ci viene in mente nessuno, aspetti, chi è un pregiudicato? Ma non ci viene in mente nessuno di specifico. Uno. Che inizia per quale lettera? Che non mi ricordo il cognome, se non altro. Non ricordo come non mi ricordo. Ma lei ve lo chiama proprio così, è delinquente abituale. Per lei è un delinquente abituale. Ma insomma, le persone che delinquono abitualmente, ma io non sto parlando del signor Berlusconi. Beh, come no? Dico che a prescindere dalla professione che uno fa, sì, chi per esempio abitualmente delinque la Costituzione italiana, sì, nel senso che abitualmente ignora l'articolo 11, abitualmente vota per la guerra, vabbè, quello è tutti, un politico, beh, secondo me è un delinquente politico. Ma io parlavo di Berlusconi. Berlusconi secondo lei è un delinquente abituale? Sicuramente è un pregiudicato. Un pregiudicato. E molto probabilmente, siccome ci sono, mi pare, altre sentenze in arrivo, se dovesse confermarsi una serie, sì, di condanne, si può anche parlare, se non di delinquente abituale, ma certamente di delinquente non per caso, ecco. Non per caso. Senta, se non lei prenderebbe Berlusconi a fare i servizi sociali a Emergency? Assolutamente sì. Ah sì? Assolutamente sì. E a fare cosa? Cosa potrebbe fare? Ma questo non lo so, potremmo parlare con lui, vedere, potrebbe dare una mano sicuramente, ma noi non abbiamo nessun problema a amministrare i conti, magari, messo lì ad amministrare i conti di Emergency, le donazioni, le cose, no? Insomma, l'amministratore in Emergency non è quello che ha i bilanci, come dire... Secondo me è un ottimo revisore dei bilanci, però, Berlusconi. Ma io sono convinto che gli troveremo sicuramente un ruolo se lui volesse venire a fare dei servizi sociali per Emergency. Anzi, benvenuto, insomma, lo posa come un appello. No, ma è molto interessante questa cosa qua. Sarebbe veramente incredibile. Non però Berlusconi vedo, che magari fa ogni tanto anche una puntatina, non so se possa senza passaporto, ma una puntatina magari là dove lei, in Sudan, sarebbe. Ma io se lui venisse a fare i servizi sociali per Emergency, farei tutto quello che è possibile perché possa anche visitare i nostri progetti all'estero, perché possa venire qui in Sudan, perché possa andare a Kabul, perché possa andare alla Scarga. Veramente vedere i progetti. Ma guardi che per voi, guardi che per voi lo sarebbe secondo me un grandissimo, non è che ne avete bisogno, però sarebbe, c'è sempre bisogno di qualcosa, no? Anche di quattrini, per esempio. Ma questo, adesso stiamo parlando di fare i servizi sociali, non di fare il grande donatore. Se volesse ovviamente donare qualche soldo del Emergency, sì, la cosa non sarebbe sgradita. Abbiamo tanto bisogno di sostenere i nostri ospedali che veramente ben venga se uno si convince che vale la pena di sostenerli. Non credo che gli manchino le risorse, insomma. Senta, per andare sulla vicenda di Lampedusa, la Lega per esempio sostiene, lei so che è un grande avversario della Bossi-Fini, che andrebbe distrutta, secondo lei cancellata, la legge Bossi-Fini? Sì, io credo che la legge Bossi-Fini sia una cosa sconcia dal punto di vista etico, prima ancora che dal punto di vista politico. È una legge, non è una cattiva legge, è una legge cattiva, è una legge che crea morti, è una legge contro le persone, però, è una, scusi, legge che si dimentica che qui tutti quanti parliamo di andare a bombardare paesi perché bisogna far terminare il massacro dei civili, poi quando i civili finalmente riescono a scappare arrivano da noi e massacriamo noi perché gli neghiamo i soccorsi, è una follia. Però scusi, dottor Strada, ma non è che la legge impedisce i soccorsi oppure mette le barriere, eccetera. La legge avrà qualche... No, impedisce i soccorsi. Ma, in realtà poi non è così. In cento modi diversi, perché noi il livello di accoglienza che abbiamo noi rispetto a persone che scappano dalla guerra, dalla povertà e dalla fame è quello di rinchiuderle in campi di concentramento. Ma se lei che farebbe? Aprirebbe i confini? Scusi un attimo, dottor Strada, lei aprirebbe i confini per queste persone qua? I confini sono già aperti, no, perché nessuno può fermare le migrazioni dei popoli. Per queste persone, io credo che queste persone vadano accolte tutte. Sì, vadano accolte tutte, anche perché, diciamocelo chiaro, la maggior parte di queste persone non vuole l'Italia come sua destinazione finale. L'Italia si trova geograficamente in una zona di transito. Certo. Dunque, queste molte persone, queste che arrivano, voglio andare in altri paesi europei. Sì. Queste Germania, persone che arrivano sui barconi, strada, tutte queste persone che arrivano sui barconi vanno accolte tutte. Tutte, ha ragione strada, certo. Ma no, ma tutte, non ragione. Lasciamo, le affondiamo, che è quello che si è fatto durante questa legge infame. No, a parte che nessuno ha ma fondato nulla. Ma è una legge nulla. Che proprio uccide questa per lei, no? Cioè una legge che la legge Bossi-Fini è una legge che per uccide. Me, questa è una legge che crea morti. Mm. Ma l'ipotesi poi non è che li uccide volontariamente, personalmente, ma è una legge che crea morti, perché nega solidarietà, perché nega umanità, perché nega accoglienza, mentre le città e i nostri paesi dove sbarcano queste persone, Lampedusa per prima, ma non solo Lampedusa, in tanti posti del sud Italia c'è dimostrato una solidarietà straordinaria da parte delle popolazioni contro la legge. Però scusi, dottor Strada, in realtà c'è chi pensa, per esempio il professor Luttwak, so che per lei è il massimo del cinismo, il professor Luttwak dice... No, Luttwak è un poveretto, discutere con Luttwak è come parlare col forno a microonde, per favore, cioè, non stiamo a perdere tempo, insomma... Senta cosa ha detto ieri signor Luttwak sui ha barconi. Ha detto che bisogna, bisogna andare lì, e bombardare i barconi, cioè impedire i barconi vuoti, molto dice lui, pericolo. Di partire. Sentiamo Luttwak, che glielo faccio sentire. Luttwak non c'è, vabbè, adesso lo prendiamo. Ma è una follia secondo lei? Cioè Luttwak è un pazzo, che cos'è? Ma Luttwak è uno che avrebbe bisogno di un trattamento sanitario obbligatorio quando parla di cose di politica, che si faccia la sua vita tranquillo. Ma è uno stratega, è uno stratega americano. Ma quale stratega? Ma come? È uno stratega americano Luttwak. Sarà forse per quello che non è che gli van benissimo tutte le guerre. Ma no, ma scusi, dottor Strada, ma ha preso i pileghisti. Sa che Luttwak disse una volta di lei che lei avrebbe salvato pure i nazisti. Ah, sì, avrebbe vero, curato sì. pure i nazisti. Ah, sì, è vero, è vero. Lei è persona pericolosa, signor Strada? Perché in guerra. Ma guardi, io le dico una cosa. Lei i nazisti li avrebbe curati, però. Perché non ha la quantità di neuroni sufficiente per capire, ma la posso dire a lei, cioè io da medico quando mi arriva un paziente sul tavolo operatorio non gli chiedo perché hai votato, come la pensi politicamente, sei fascista, nazista, comunista, socialista, democristiano, neodemocristiano, sei del partito dell'Alfetta o sei contro l'Alfetta, cioè non mi interessa. Io faccio il medico, è il mio dovere di curare chiunque mi capita di incontrare che abbia bisogno. Punto. Anche i nazisti. Devo dire che la discussione finisce lì. Anche i nazisti, certo. Anche il peggiore essere umano, i nazisti sicuramente erano tra quelli, ha diritto che nei suoi confronti i diritti umani siano rispettati, perché sennò ci pigliamo in giro. Sennò pensiamo sempre che i diritti umani debbano valere per tutti i nostri amici e per quegli altri no. E se tutti la pensano così, il risultato finale è che diventiamo una giungla, non una società. Vabbè, ma mettiamo adesso un po' per scherzare, anche se su queste cose non si scherza. Hitler lì sul punto di morte, lei che fa, lo salva? Se posso, sì, certamente. Beh, questo... Allora ha ragione. Io non faccio il giudice. Ha ragione, io non faccio il giudice. Senta, persone che hanno dato la morte. I leghisti invece, i leghisti che dicono che la colpa è della Chieng e della Boldrini, sono dei subumani? Ma no, ma non è questione di subumani, cioè loro hanno questa mentalità e molte persone di loro hanno una mentalità gretta, chiusa, sostanzialmente ottusa, molto egoista. Non voglio neanche usare parole grosse, non mi sembra veramente il caso, ecco. Purtroppo è una mentalità che si sta diffondendo in Italia e questo per me è preoccupante. Però si dimentica tra l'altro di quanti milioni e milioni e milioni di italiani sono stati migranti, sono stata gente che sono scappati per trovare lavoro, per mandare i soldi a casa, ma ce le stiamo dimenticando queste cose. Vabbè, però deve essere governata questo arrivo dei barconi, lei non può dire entrano tutti perché devono essere accolti tutti, io sono contrario, Parenzo è d'accordo, io sono contrario. Certo, vabbè, no, su questo non sono d'accordo sul curare chiunque, i talebani, i nazisti, su questo no. Invece io sono più d'accordo su questo in realtà, e su invece questo sono d'accordo. D'accordo sull'accoglienza di tutti, questo la penso diversamente, io penso che chi ha dato la morte, cioè un kamikaze ad esempio, o un nazista, beh, mi verrebbe il sangue amaro, diciamo. No, invece io questa qua la capisco, però... dal punto di vista di un medico la capisco, invece l'accoglienza per tutti quelli che arrivano con i barconi un po' meno. Senta, ma tornando si metta un attimo di fronte a un barcone che magari in un mare non proprio calmo e piatto come l'olio, che è a 150 metri dalla costa, lei cosa fa? Lo manda indietro, lo affonda, oppure li lascia sbarcare e cerca di vedere magari se qualcuno ha bisogno di assistenza, di farsi visitare, se stanno bene. Cioè, non lo so, mi sembra un comportamento più umano questo, no? Sì, ma se non pensa? Sì, può darsi, però a un certo punto uno Stato deve anche mostrare ogni... uno Stato per essere governato, per essere regolato, ha bisogno anche di qualche volta di dimostrazione di forza. Cavolo, in Spagna, che non è mica sparano ogni tanto, in Spagna sparano, dottor Strano. Io non sto mica difendendo la Spagna, non so neanche cosa succede. Io penso che uno Stato ogni tanto non abbia bisogno di dimostrazione di forza, penso che uno Stato sempre abbia bisogno di dimostrazione di umanità. Che è una cosa molto diversa. Un attimo solo, abbiamo pubblicità e traffico, poi torniamo per le ultime battute con Gino Strada in collegamento dal Sudan. Email e business, risponde Mail App. L'email può far crescere il mio e-commerce? Posso inviare un'email senza il consenso del destinatario? Come faccio a mandare una newsletter a 10.000 persone? Come posso evitare che le newsletter finiscano nella cartella spam? Vai su radio24.it, entra in Email e Business, risponde Mail App e mandaci la tua domanda. Verrà il giorno in cui supereremo la furia dei venti e i consumi si prosciugheranno. Ritroveremo la strada perduta e nessun pericolo ci sorprenderà alle spalle. Maestro, ma arriverà mai? È già arrivato. Innovazione è non fermarsi mai. Nuovo Sprinter da 90 euro a settimana per 47 mesi con manutenzione inclusa. Anticipo 6.860 euro, TAN 480, TAG 567 e riscatto 10.395 euro. Fino al 31 dicembre, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Info nuovosprinter.it. Team System, in collaborazione con Euroconference, presenta Attractive Tour 2013, l'evoluzione dei software gestionali. Dal 10 ottobre all'8 novembre i software partner aderenti invitano tutti i commercialisti ai numerosi eventi formativi accreditati. Iscriviti gratuitamente su teamsystem.com al convegno più vicino e scopri le ultime novità dell'offerta Team System. Partecipa all'evento e vinci uno dei Samsung Galaxy Note in palio. Regolamento su teamsystem.com. Software Team System, flessibili e adattabili per ogni esigenza. Più che una pressione fiscale, è una pressa fiscale che rischia di schiacciare artigiani e piccoli imprenditori. Serve un sostegno serio alle imprese, di lungo respiro, o le imprese soffocheranno. Il lavoro non è un lusso. Perché viene tassato come un bene di lusso? Noi abbiamo vissuto meglio dei nostri padri e i nostri figli dovranno vivere meglio di noi. I loro sogni sono la nostra responsabilità. CNA e le imprese, l'Italia che sostiene l'Italia. CNA.it. Nuova Jeep Compass 2014. Interni in pelle, telecamera posteriore, cerchi in lega da 18, affinate l'istinto. Tua con Jeep Free a interessi zero. Oggi paghi solo la metà e tra due anni sei libero di tenerla, cambiarla o restituirla. TAIG 1,36. Offerta valida fino al 31 ottobre sulle Compass disponibili presso le concessionarie aderenti. Salvo approvazione SAVA. Info su Jeep Official. Strade in diretta. Buonasera, 3 chilometri di coda dopo un incidente sull'autosole tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Altri 2 chilometri di coda per lavori sull'autosole verso Bologna tra Terre di Canossa e Reggio Emilia. A Roma code per un incidente sulla Prenestina tra via Laviano e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per traffico poi sul raccordo code tra la diramazione Roma Nord e la Rustica in carreggiata interna. Code anche sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e Tor Cervara in uscita da Roma e verso la città tra il raccordo anulare Tor Cervara. Spostamenti condizionati anche dal maltempo al centro-sud e sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Potenza Metaponto. In provincia di Matera rimane chiusa la statale 106 Ionica. Infine ricordiamo che è in programma per le 21 la chiusura per lavori notturni della 4 Torino-Milano in uscita da Torino tra Corso Giulio Cesare e Settimo Torinese. È tutto, torniamo tra un'ora. Promo 24. Condominio, locazione, divisioni, successioni. Quante volte capita di litigare? In questi e in altri casi è obbligatorio rivolgersi al servizio di mediazione. Le Camere di Commercio offrono la soluzione più facile, veloce ed economica per risolvere una lite civile o commerciale. Presenti in ogni provincia, le 105 Camere di Commercio hanno una lunghissima esperienza in materia e consentono di trovare un accordo amichevole in tempi brevi e con costi contenuti e predeterminati. La procedura di conciliazione è rapida e i conciliatori sono i più preparati e per di più si può realizzare anche direttamente online sul sito conciliazione.camcom.it. La Zanzara. Si va lì alle autorità locali e si dicono: questa non è una barca registrata, questa non è una nave collaudata per portare passeggeri. O la distruggete voi o la distruggiamo noi. Distruggendo la barca, questi non partono. Siamo qui, abbiamo rotto le scatole a Gino Strada in Sudan, fra poco lo lasciamo. Perché ha cose più importanti da fare. Che però... ore sono in Sudan? Che ore sono, Strada? È allo stesso orario? Siamo un'ora avanti. Un'ora avanti. Senta, ma ha ragione paradossalmente, tornando alla politica, la signora Barbara Berlusconi quando dice che il PD non può protestare perché ha fatto due governi insieme a un delinquente? Lei naturalmente lo dice, la signora Barbara Berlusconi, certamente non dalla parte del padre, diciamo, lo dice. Però ha ragione, no? Non lo so, io non ho sentito questa cosa, non conosco Barbara Berlusconi, però penso che una frase del genere la dica a ragion veduta. Cioè, ha ragione nel dire che il PD non è che adesso può rompere le scatole su Berlusconi, sulla decadenza, eccetera, quando è da due governi insieme, sono stati insieme sia con Monti che con no, che adesso, o sbaglio? Beh, insomma, insieme ci sono stati e ci sono, mi pare. Poi la decadenza che non sia una cosa diversa. Senta, ma lei... Senta, ma l'Inter, sai che è molto interista il signor Strada? Come no, sì, certo, molto interista. È molto amico di signor Moratti, sì, peraltro. Certo. Siamo andati spesso nello stadio insieme quando stavo a Milano. Ma questa roba del signor Moratti, per abbandonare un attimo Sudan, Lutwak, eccetera. Ma gli ha tirato le orecchie al signor Moratti per la vendita? Ma no, perché non credo. Ne perde le italianità. Non gliene frega niente, credo, a Strada. Che signor dice, Strada? Signor Strada? Boh, le dispiace un po'? Io sì, ma mi spiace, ma se ci ha fatto questa scelta avrà le sue ragioni e io comunque continuo a essere interista. Cioè a lei non importa se l'Inter è in mano a Tohir, in mano a qualcun altro, eccetera. Però, ma insomma, sa, è così. Mi dispiace un po', sì. Ci viene portati dal papà, come è successo a me quando si ha... Però un po' tradito si sente, un po' tradito dalla no, famiglia che no, ha venduto tutto. No, no. Cioè l'Inter resta, no, i Moratti passano, l'Inter resta. Ma io credo che l'Inter resta e i Moratti anche... Insomma, ha fatto la storia dell'Inter, quindi resta comunque in ogni caso. Senta, un'ultimissima cosa, secondo lei la TAV va combattuta anche con la sabotaggio? Non ho capito bene la cosa. La TAV, l'alta velocità, la TAV va combattuta anche, sì, con il sabotaggio, anche con un po' di violenza? No, io non credo che vada mai usata violenza. Credo e preferisco vedere tutte le volte che gli esseri umani risolvono i problemi, che possono essere anche molto seri, sì, anche molto più seri della TAV, senza usare violenza, perché mi sembra che finora si è dimostrato che tutte le volte che si è usata violenza, sì, non si è guadagnato molto. Senta, le poche volte che lei vede dalla televisione vede inquadrata la figura dell'onorevole Santanchè, a cosa pensa? Ah, bellissimo. Ogni volta che vede in televisione, no, da altre parti, l'immagine... Ho la fortuna, io che sono residente a Venezia, sì, ho la fortuna di non avere neanche il cavo della televisione in casa. Vabbè, mia. L'avrà vista qualche... di vedere inquadrata, ho visto qualche fotografia, sì. Che cosa le viene in mente? Ma nulla, perché le fotografie non parlano, per fortuna, ecco. Ho capito, l'immagine, il volto, l'immagine, il volto, o le parole quando le legge, o le parole quando le legge. No, la cosa mi lascia del tutto indifferente, non ci presto neanche attenzione, preferisco concentrarmi su cose un po' più serie. Cioè, non occupa nessuno spazio nella sua vita. Va bene, grazie, dal Sudan, Gino Strada, grazie, a presto, grazie a presto, arrivederci. La zanzara. Emanuele da Udine 800240024, la Zanzara. Emanuele, dica. Sì, salve. Vada. Scusate, ringrazio di essere stato interrotto da Gino Strada, insomma. Vabbè, che vuol dire? Che se si deve essere interrotti, bello essere interrotti da una persona meritevole. Vabbè, allora? Volevo parlare appunto di questa nuova splendida trovata che ha avuto il nostro Presidente della Repubblica, dell'indulto, no? Di tutte queste cose. Come posso dire? mi trovo nella stessa sua stessa situazione, nel suo stesso tipo di pensiero. Mi sembra strano che questi indulti, queste cose escano fuori sempre come carta igienica per pulire il culo dei potenti, insomma. E sono stufo di vedere queste cose. Ricordo al signor Napolitano che l'ultimo indulto ha fatto sì che uscissero delle persone di galera che a Oderzo hanno abusato e violentato di una signora di 75 anni con una pala e con un piccone. Io gli voglio solamente fare questa piccola riflessione, è che prima di dire delle cose di questo tipo bisogna un momentino veramente essere il Presidente della Repubblica e non il Presidente dei potenti, di Berlusconi, dei Previti, di turno, che io penso di parlare come da persona per bene, insomma, che ha sempre pagato anche le tasse, se i dati, anche se i dati, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Ma un momentino di rispetto per le persone che veramente credono alla giustizia. Solo questo chiedo, niente di più e niente di meno. E poi volevo salutare il signor Fede, perché sono anni che lo seguo. È andato via. Antonio da Padova, grazie. Antonio da Padova, avanti. Non c'è Umberto da Milano. Pronto? Dica. Buonasera Cruciani, complimenti a lei e a Parenzo. Vada. Allora, Napolitano sì, ha fatto quest'altra trovata per salvare il culo giustamente ai nostri potenti. Chiaramente una mano lava l'altra. Berlusconi ha aiutato Letta e mo devono aiutare pure Berlusconi in qualche modo, no? Guardi, il pensiero sorge spontaneo, ma semplicemente perché, guardi, a me non mi fa schifo questa cosa, basta che sia esplicita. Ma cioè, allora, a quel punto uno fa un provvedimento ad personam. Ma non è vero, ma ogni anno siete dei perché proprio adesso? Perché proprio adesso? Ma che c'entra? Ogni anno si pone il tema dell'emergenza carcere, del sovraffollamento. Ma perché proprio adesso? Perché farlo proprio adesso? Perché una cosa a Parenzo? Sì. Parenzo, lei ha giustamente, ha pienamente ragione, però se lei va a vedere, qui non si sta salvando l'umile che deve scontare gli ultimi due anni. No, anche quello, anche quello. Come no? Anche quello. Sì, anche quello. Ma loro lo stanno trovando come scusa. Vabbè, quella è una sua... Quale scusa? Non è una certezza. Adesso chi se ne frega la sua posizione. Sto dicendo a Parenzo. Di fronte a migliaia di detenuti, di fronte al fatto che c'è chi, come Cruciani, i leghisti e tanti altri, che dicono che c'è un allarme sicurezza, vergognoso, i detenuti che tornano, i criminali che tornano per strada, campagna, veramente roba da regimi proprio, quando l'indulto e l'amnistia è il più grande atto politico di responsabilità che un paese civile possa fare. Ma quando mai? Lo fanno solo in Italia. Il più grande atto politico. Ma quando mai? Lo fanno solo in Italia. Rispetto a chi ha già scontato la pena, perché non è che chi è appena entrato, non è che il criminale stupratore viene rilasciato. Queste sono le campagne di stampa infami. E voglio vedere se Libero, e ora voglio vedere se Libero e Il Giornale, ad esempio, certo, in questa, che sono sempre stati contrari ad amnistia, certo, e indulto, voglio vedere domani il mio amico Sallusti, il mio amico The Beautiful Stone, Maurizio Belpietro, voglio vedere domani cosa diranno su questa roba dell'amnistia. Ma se fossero Sallusti coerenti, dovrebbero dire no all'amnistia e all'indulto. Aspetta, Umberto, che vuole? No, se ha il coraggio Sallusti, domani dovrebbe mettere in prima pagina, no? Salvate anche il mio capo. E invece, siccome loro hanno fatto le campagne contro Libero e Il Giornale, contro amnistia e indulto, esatto, il sospetto vero è che domani loro saranno favorevoli. Loro saranno favorevoli, certo, oggi all'amnistia e all'indulto. Noi, radicali, liberali, che abbiamo sempre detto amnistia subito, indulto ora, libertà, carceri, giustizia e diritto, noi sempre detto prima, loro oggi attaccavano, noi ieri, domani Sallusti dirà Il Giornale viva indulto, ieri però, radicali liberali e liberisti. Lo so, e poi volevo dare un consiglio a Strada, se lo sentirete. Di non fargli gestire i soldi a Berlusconi, se lo prende a fare i servizi sociali, perché sennò gli fa sparire pure quei due soldi. L'unico metodo, l'unico metodo è quello di costruire più carceri. Sì, avere più carceri e basta. Uno su, stato dai. Serio, a un certo punto. Qualcuno mi ha scritto, esce anche Corona? Vabbè, dai, Giorgio dalla provincia di Modena. Signori, buonasera. Io prima ho sentito un intervento su una signora di Parenzo, sì. La signora che parlava di tempi di Dio, insomma, parlava di terminologie di carattere, tra virgolette, religioso e spirituale. Siccome sono una media cristiana, io penso che i tempi di Dio non coincide col tempo nostro. Io vorrei dire una roba a Parenzo. Mi pare che Parenzo sia di tradizione ebraica. E cosa c'entra? Mi fa specie che una persona come lui, che ha una tradizione di questo genere, si sia messo a fare così della ironia becera nei confronti di una persona che ha una fede spontanea, popolare, semplice. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Quando la zanzarina, dai, tormenta la mia noce, dai. Un durissimo attacco di Napolitano al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle se ne frega dei problemi della gente. Un attacco gravissimo del Presidente della Repubblica, a un movimento politico, è legittimo attaccare Napolitano, non è legittimo, è abbastanza anomalo che il Presidente della Repubblica attacchi una forza politica. Sarà una forza comica, secondo te, ma è una forza politica rappresentata in Parlamento, che fa politica, e ci sta la critica al Presidente della Repubblica. I richiami di Napolitano spesso, tra l'altro anche con Siga, spesso con le forze politiche, picconava, non è il caso di Napolitano. Capito? Perché Napolitano è uomo di misura. Appunto. È uomo di... Non è che ti metti a battibeccare. C'è un precedente. Ma non ti metti a battibeccare con una forza politica, no? I richiami di Napolitano alle forze politiche, dai, con sfumature più... sfumature più o meno alte, più o meno gradate, ci sempre state. Il richiamo di Napolitano alle forze politiche. E il Movimento 5 Stelle ha rotto i coglioni. Questa è una tua opinione. Napolitano ha rotto i coglioni. Napolitano ha detto: il Movimento 5 Stelle se ne frega dei problemi della gente. È meno male. Lo dico io. Segreteria telefonica della Zanzara. Volevo solo far notare che l'anagramma del cognome di Capezzone dà le parole cazzo pene. Guardate voi che cosa significa, visto l'elemento. Buonasera, datemi pure della cretina, non mi interessa, ma gli uomini sessuali, inteso come maschi, non mi fanno né caldo né freddo. Le lesbiche sono da solo delle gran sporcaccione che confondono una forte amicizia femminile con l'innamoramento. Non le sopporto proprio. Buona serata. Si può fare a meno di parlare sulle parole degli altri, perché per chi ascolta si crea confusione e non si capisce nulla. Inoltre tutti gli intervistatori interrompono a metà le risposte con altre domande, e così per chi ascolta anche non si crea confusione. Grazie. Volevo dire che Vito Crimi è proprio un gran uomo di classe, col suo modo di dire che il cavaliere molla puzzette, è proprio un gran uomo di classe. Bravo Vito Crimi, vai a dormire al Senato, vai. Nuovo spot per Barilla. Dove c'è Barilla, c'è culo. Partiamo subito, Cruciani, sei uno stronzo, ma mica uno stronzo, stronzo proprio stronzo. Avarenzo, fa rima con stronzo. Ma che ti offendi? Non lo sai che chi non ragiona offende? Tu sei solo offende di cazzate, ma vaffanculo. Cruciani, ho visto l'imbarazzante spot sulla trasmissione lì del Debbio. È stato praticamente imbarazzante vedere quel rincoglionito pezzo di coglione di merda di Parenzo far finta di spaccare un pezzo di cemento che, con il modo che aveva di dare le martellate, sembrava di vedere una signorina schifata. È un frocio. Ammazza la zanzara, schiaffeggia di la chiappa, la chiappa nera ti fa. Tutta la sera, non ci siamo ancora, non ci siamo, non ci sono delazioni, non ci sono confessioni. Non ci siamo, puoi mandare in onda. Ho capito, ragazzi, non ci siamo ancora, dobbiamo migliorare. 02 di Manto 02 46, vive sempre un giorno di troppo. 02 46 no, ma lo mandi 50, no, vive sempre un giorno di 02 troppo. E so che ci sta ascoltando, tra l'altro. 02 46 52 40 10. Non ci siamo ancora. Cioè, però non è che dobbiamo andare in onda, non ci siamo, e rimanda in onda quella porcilaia umana. Alessandro da Latina. Buonasera, buonasera a tutti. Niente, io volevo dire una cosa, no? Il suo presidente della Repubblica che ci abbiamo, ma quando è che si occupa degli italiani? Io voglio capire una cosa, sto presidente della Repubblica, come dicono a Roma, c'ha un po' porca tramma in faccia. Se in la che senso? Non ho capito. Ma glielo dico io, se la prende con il Movimento 5 Stelle, che è l'unico movimento che sta facendo qualcosa per gli italiani e sta svegliando gli italiani. Un'altra cosa volevo dire, che lui fa l'amnistia e cascia fuori tutta sta merda che sta dentro le carceri, e ci abbiamo 50.000 extracomunitari dentro le carceri. Si pensa a fare le carceri nuove, non servono le carceri nuove, serve solo di chiamare l'Europa e dire: ci abbiamo 20.000 rumeni in Italia, perché non gli mandiamo a scontare la pena al paese loro, e noi italiani non paghiamo 150 euro al giorno per ogni detenuto? Quale cazzo di carceri nuovi se devono fare? Dobbiamo buttarla fuori questa monnezza dall'Italia, non si può più vivere, non si riesce più a vivere. Non ho capito, secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Gli stranieri di alcuni paesi bisognerebbe ridarli a... gli stranieri che stanno in Italia, gli extracomunitari, i 50.000 detenuti extracomunitari che sono in Italia, li dobbiamo rimandare al paese loro. Ci costano 150 euro al giorno. Ma non è così semplice. Quali carceri bisogna fare? Quali carceri nuovi bisogna fare? Non è così semplice, non è così. Ma perché semplice. Non è così semplice? Come dobbiamo stare sotto la Germania ci comanda a bacchetta e noi non possiamo fare una cosa? Ma non è possibile andare avanti a questo modo, non è possibile, non si vive più, non si esce più di casa che te vengano a rubare. Ti fai la legge a modo tuo e vanno a denunciare la persona che sei difesa. Ma che siamo impazziti? Ma qua non ci sarà più a campare. E questo che vuole fare? Vuole fare l'amnistia per salvare Berlusconi, non ce ne frega un cazzo. Ma questa gente che sta lì dentro non la può rimettere in libertà in Italia, la deve mandare al paese loro. Scusi un attimo, il problema è ancora non si sa se questa amnistia sarà stratega di flussi migratori, chi è questo, se questa amnistia stratega di flussi, se questa amnistia riguarderà Berlusconi, di migrazioni, chi è questo studioso? È un signore che chiama da Roma, mi sembra. Che chiama da Roma, un signore che chiama da Latina, anzi, giusto? Da Latina. Sì, da Latina. Io non sono razzista perché ho tanti amici questo studioso, tanti pieni dei negri, però stanno a casa loro, guarda, studioso di flussi migranti. Sì, prego. Allora io ho tanti amici stranieri che lavorano con me, sono delle bravissime persone, ma le persone che vengono qua in Italia solo per delinquere bisogna rimandarle al paese loro di cosa. In Romania il 40% degli omicidi, delle cose, dei furti si è abbassato, ma stanno tutti in Italia perché in Italia non c'è la legge, non esiste la polizia, i carabinieri non ce la fanno più ancora appresso alla gente, non ce la fanno più. Grazie Alessandro. Prego. Achille da Roma, buonasera Achille. Buonasera a lei. Dica, buonasera. Dica. Il Presidente della Repubblica fa bene a richiamare dei signori quando, diciamo così, fanno delle cose singolari. Il Presidente della Repubblica faccia valere i suoi poteri di indirizzo, riunisca Camera e Senato e faccia un discorso in diretta a reti riunite, ovviamente. Ma che vuol dire, Achille? Non ho capito. Mi faccia finire, per favore, e spieghi perché è assolutamente indispensabile un'amnistia, onde evitare danni irreparabilissimi al paese. Ma questo che significa? Che significa? E significa semplicemente che l'intervento del capo dello Stato è legato a una logica evidentemente nota a tantissime persone. Forse questo movimento ha scambiato i temi della giustizia per un palcoscenico da teatro. Non è esattamente così, perché probabilmente non tocca loro, e quindi io ritengo che il Presidente della Repubblica faccia bene a parlare di amnistia, anzi la solleciti con ulteriori interventi, riunisca Camera e Senato, faccia un discorso in diretta al Paese e spieghi perché l'amnistia è indispensabile, perché l'Europa ormai ci ha stradeclassati giustissimamente, perché questo non avvenga più e i cittadini non abbiano a soffrire ingiusta persecuzione. Va bene, grazie Luigi da Verona, questa è fatta la filippica. Luigi da Verona, buonasera Luigi. Sì, buonasera. Mi è piaciuto prima l'intervento di Gino Strada, che di fronte alla domanda di Parenzo, ma un nazista lo cureresti? Lui dice: certo, io non guardo se uno è comunista o nazista, è una persona che ha bisogno, quando mi viene sotto cura io lo curo e basta. E Parenzo, Shalom David, che diceva: no, io di fronte a una persona che dà morte, e questa è proprio la differenza di pensiero. che c'è tra chi segue la Bibbia, dove c'è l'occhio per occhio e dente per dente, e chi invece ha una visione più cristiana di perdono anche di fronte a una persona, diciamo, cattiva che dà la morte. D'altronde, voi state aspettando ancora la prima venuta e noi invece la seconda. Come cristiani. Vabbè, se non parliamo di cose religiose, non ce ne frega veramente nulla. Assoluta. Grazie, ma comunque è tutto collegato, caro. Tutto collegato, grazie, tutto collegato, chiaro. Roberto D'Agostino, numero uno, ieri sera a Quinta Colonna. Sentite, l'unico lavoro in Italia è... Arriva, L'unico che trova subito lavoro qua è chi fa il badante. Siamo talmente un paese di rincoglioniti vecchi che solo cambiare il pannolone, cambiare il catetere, ecco, questo è... Poi a un certo punto si rivolge, credo, a quelli della maggioranza, l'ex maggioranza di centrodestra: da 10 anni che siete al potere. Tutti cadono davvero. La riforma della giustizia. Vado in pubblicità. 10 anni al potere, ma che cazzo avete fatto? Sgarbi, senza Berlusconi sono dei morti viventi. Il partito non è sfuggito a Berlusconi, il partito non c'è mai stato, non può sfuggire, il partito era lui, il centrodestra era lui. Quindi adesso senza di lui? No, sono dei morti, ma perché li hai visti? Ma hai visto Quagliariello, cioè ti pare vivo Quagliariello? Alfano ti pare vivo? Cioè, no, ma dico, hai sentito mai un pensiero di Alfano? Dimmelo, dimmi un pensiero, cioè, hai espresso un'idea nella vita? Federico da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Allora, senta, secondo me, vabbè, il fatto che il Presidente della Repubblica abbia fatto questa dichiarazione apposta per Berlusconi è scontato, perché penso che sia nelle capacità del Quirinale capire che in questo momento fare una dichiarazione del genere avrebbe portato a queste critiche. E quindi, se non avesse voluto, se non ci fosse stato bisogno di fare questo passo per Berlusconi, avrebbe evitato, se non altro per non aumentare le già ripetute critiche. Ma guardi che non si lui. Sa se questa cosa riguarderà Berlusconi in realtà, cioè non è così sicuro che questa cosa riguardi Berlusconi. No, non è così sicuro, capito, dico, lo dimostra il fatto che, non essendoci, come diceva Strada prima, una necessità imminente in questo momento, avrebbe sicuramente aspettato, perché sapeva meglio di chiunque altro che poi le critiche sarebbero arrivate e non si sarebbe dovuto esporre. In quanto, no, ma io trovo assurdo che il Presidente della Repubblica si metta a battibeccare con una forza politica, con il Movimento 5 Stelle, dicendo che non fanno il bene del paese, non guardano i problemi della gente. E quello, tra l'altro, quell'altro che risponde ancora. È stata una risposta arrogante che sicuramente poteva evitare, perché è chiaro che le persone pensano questo. Io volevo chiederle anche una cosa, però, perché prima ha fatto un commento che vorrei criticare. Dice, lei ha detto, se proprio lo deve fare, che lo faccia in maniera dichiarata, allora mi sta bene. No, un ascoltatore lo diceva. No, lei prima diceva, allora almeno lo faccia in modo dichiarato, allora mi starebbe bene. No, però, se vuole salvare Berlusconi, naturalmente. Questo dico, ma perché lei sarebbe bene se fosse in maniera dichiarata che si faccia un provvedimento che include migliaia e migliaia di persone, quindi include tutto il paese, per Berlusconi. Allora si dovrebbe prendere la responsabilità di dare la grazia, e la grazia sarebbe una sua responsabilità, che poi pagherebbe ovviamente in termini di consenso, di apprezzamento da parte del paese, ma allora sarebbe sì quella un gesto che potrebbe fare, ma che deve fare a suo nome, non un gesto a... Va bene, ho capito benissimo, ho capito benissimo. Grazie. Andrea da Roma, buonasera Andrea. Buonasera, io volevo ringraziare il Presidente della Repubblica, perché prima non ero poco convinto del voto dato al Movimento 5 Stelle, invece adesso sono straconvinto, rivoto un'altra volta Movimento 5 Stelle, perché uno che fa senatori a vita da tutti questi soldi, uno che firma leggi assurde per tanti anni con Silvio Berlusconi, parla dei problemi con la gente. È vergognoso questo Presidente. Ma perché è vergognoso? Non ho capito, mi spieghi perché in questo caso è vergognoso, Andrea? È vergognoso perché logicamente stava facendo quadrato contro il Movimento 5 Stelle, perché non fa parte dell'atto costituzionale. Ho capito, ma non è che fare l'amnistia e l'indulto sia una cosa contro il Movimento 5 Stelle. Uno lo può contestare, ma non è che uno lo può contestare dicendo è una cosa contro il Movimento 5 Stelle. Poi secondo me è sbagliato mettersi a battibeccare con Grillo, che gliene frega a Napolitano di entrare nella polemica con Grillo. Non gliene frega niente. Fa un richiamo a una forza politica, ma ho capito, è nelle sue prerogative di capo dello Stato. Ma non è vero di poterlo fare. Che deve fare? Soltanto taglianaste, inaugurazioni ed è con grande ribadimento. Entra nelle questioni che ci sono, non è che dice che sono, entra nelle cose, no? Cioè, mi pare evidente, lo ha fatto altre volte con Berlusconi, con PDL. No, in questo caso ha detto una cosa gravissima: che il Movimento 5 Stelle non si occupa dei problemi della gente, se ne frega dei problemi del paese e della gente. È una cosa diversa, dai, su. Andrea, dunque. Ma io voglio sapere qual è l'argomento per cui lui è intervenuto per dire che il Movimento 5 Stelle non guarda i problemi che c'è la gente, cioè lo spiegasse lui. Cioè, io, siccome non è vero, lui sicuramente deve fare spalla a tutti i partiti che ci sono dentro al Parlamento, perché deve andare contro il Movimento 5 Stelle, se ne fa questa uscita poco diciamo, no? Ma infatti a me non mi interessa il Movimento 5 Stelle, ma non si è mai visto un capo dello Stato che delegittima una forza politica. No, non ha delegittimato una forza politica. Sì, ha delegittimato. Difende un principio, e cioè il fatto che l'amnistia e l'indulto sono un provvedimento di civiltà. E il fatto quello che è secondo ma questa è una tua opinione. Ma che cosa vuol dire? Questa è semplicemente una tua opinione. Non si è mai visto. Di umanità ma questa secondo te, non secondo tutti, c'è qualcuno che legittimamente, come me, per esempio, si oppone all'amnistia e l'indulto, non è che sono un disumano. No, capito? La polemica non è su questo. No, ti sbagli. La polemica è sul fatto che hanno attaccato Napolitano. Ma loro sono legittimati a farlo. Allora, perché fanno politica. L'argomento sbagliato di qualcuno è quello di ritenere, di legare tutta questa cosa alla vicenda di Berlusconi. Ma ognuno è legittimato a fare la politica. Napolitano non fa politica. Dice, no, infatti fa il capo dello Stato, che dice chi pensa che l'amnistia sia un provvedimento pro Berlusconi se ne frega dei problemi del paese. Cioè fa capire che la cosa riguarda tutti, non Berlusconi. Hai capito o no? Sì, ma non è, allora non come va Napolitano bene, già altre volte ha richiamato una forza il PDL. Dice che se ne frega dei problemi della gente. Ma non vuol dire perché delegittimare una forza politica. Vabbè, allora non nel vuol merito, dire nel felice merito, dalla provincia di Catania. Merito. Sentiamo qualcuno. Felice dalla provincia di Catania. Pronto? Dica. Sì. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie per essere. Vada, veloce, veloce. Velocissimo. E allora, mi piace come conduci il programma, perché in realtà. Oddio, ma non mi interessa adesso, mancano 45 secondi. Felice, su, 5, dai. Sì. Allora, bisogna proporre delle cose verosimili. Nel senso che è ovvio che nessuno, un marinaio non lascerebbe mai una persona a mare, un medico non lascerebbe un malato di soffocamento. E allora? Quindi verosimili, vero è pure che non si può manco bombardare la barca lì. Verosimili, che cosa è verosimile? Verosimile è che ci costa troppo curarli, ci costa ancora di più andarli a pescare sott'acqua, ci costa un mare tutto quello che avviene oggi. Quindi potrebbe essere invece verosimile andarli a prendere sani e di portarli da qualche parte. Ma sani dove? Sulla barca dove? Questo è fattibile. Qua qualsiasi satellite li becca, li vede. Appena è possibile prenderli sani, mi costa di meno prenderli sani. Quello può essere. Perché quello i malati li devo curare. Maria dalla Spezia, velocemente, ho capito benissimo. Maria dalla Spezia, velocemente. Allora, io volevo dire che è una grande ipocrisia. E Napolitano, quando pensa all'indulto e all'amnistia, dovrebbe dare parte dei soldi del finanziamento pubblico ai partiti a queste persone che vengono messe fuori dalle galere senza sapere dove sbattere la testa. Guardi che Napolitano non è che può gestire il finanziamento pubblico dei partiti, i soldi dei partiti. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Siccome sono una media cristiana, io penso che i tempi di Dio non coincide col tempo nostro. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Viva i frasi! Radio 24. La passione si sente. HP supervaluta i tuoi vecchi PC. Vai su www.hp.com/it/radio. Vi ha presentato La Zanzara.